Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, io neanche mi ricordo più a che anno siamo arrivati. Che è il terzo, il quarto, il quinto? Credo il quarto. Il quarto anno. Ma ti immagini? Ah, che bello. Come stai? Ma bene, bene, ti vedo in forma, io sto benissimo, pronti alla ripartenza e con le dovute attenzioni. Con le dovute attenzioni, ovviamente, insomma, anch'io. Sei ripartita, ripartiamo con la radio, è ripartito il ristorante, insomma, piano piano ce la faremo in attesa del vaccino. Ho passato una bellissima estate dal punto di vista personale, viaggiando tanto in Italia, eccetera, quindi, però è ovvio che insomma... No, ti vedevo, ma pescavi e mangiavi quello che pescavi? No, no, sarà bellissima e fra l'altro poi avremo anche un amico che ha accompagnato alcuni giorni di questa mia estate, fra poco è Ciro Ferrara, perché oggi parliamo di pomodoro, che insomma uno però Pier, dovremmo dire due cose in più, perché abbiamo cambiato, terremo le nostre ricette, abbiamo cambiato, insomma, ho voluto dare una veste nuova di questo mangia come parli. C'è Ferron, ah sì, lo vedo, c'è anche Giorgio dietro oggi che ci sta. Oggi c'è Giorgio De Luca, ben trovato, ben ritrovato. Quindi... No, allora la forma di quest'anno, la formula di quest'anno sarà un ingrediente naturalmente della stagione, sviluppato su tre ricette, e magari quest'anno entriamo un po' più nella applied economy della famiglia, nell'economia applicata alla famiglia, per cui daremo anche Marisoni sarà orgoglioso. Infatti, abbiamo la nostra divisa da sostenere, Radio 24, per cui parliamo un po' di economia applicata alla famiglia e daremo il prezzo della settimana o del mese, insomma, del prodotto che utilizzeremo. In questo caso parleremo di pomodori, tre pomodori diversi, dal ramato al datterino al San Marzano, uno dei padri fondatori della cucina italiana, e poi ovviamente gli SOS Oldani, 349-238-6666, appuntamento imperdibile, la mail mangia come parli @radio24.it, tantissimi ospiti, e poi quest'anno, ma insomma è sempre stato nel DNA di Mangia come parli, una grande attenzione all'attualità, perché ovviamente non sono settimane, non sono mesi purtroppo normali, e quindi bisognerà anche capire che cosa bisogna fare per ripartire, come si sta ripartendo. E a proposito di ripartenze, io do il benvenuto a un padre fondatore, anche lui un po' come il pomodoro della cucina italiana, con un prodotto che è iconico, che rappresenta l'Italia del mondo, ed è Franco Pepe. Dove sei, Franco? Dove sei? Ciao Franco. Allora, ciao Davide. Allora, sono sul mio belvedere di Pepe in Grani. Sono qui ad ascoltarvi. Località Caiazzo, Pepe in Grani a Caiazzo, quindi, nelle colline dell'Alto Casertano. Quindi borghi. E parlando di pomodoro, io davanti a me ho le colline di Villa Santa Croce, a 2 chilometri dalla pizzeria, dove c'è stato questo grandissimo progetto, questo pomodoro riccio, un pomodoro dell'Ottocento. Ecco, Franco, mi viene da dire, tu che adesso stai stravolgendo la pizza, stai dimostrando che sulla pizza si può fare a meno anche del pomodoro, evidentemente. Cosa ho fatto di male? No, guarda, il pomodoro è un ingrediente importante per la pizza, anzi sulle mie pizze, nel mio menù, c'è una diversificazione e quindi valorizzazione dei pomodori. Ti ho ascoltato da Terino, San Marzano, tu pensi che la mia scarpetta è una delle ricette più gettonate, diciamo, la scarpetta, c'è una composta fredda di pomodoro, dove c'è sia il datterino sia il San Marzano essiccato al sole in sale di Trapani e il pomodoro riccio, cioè tre pomodori messi insieme. Allora, già la parola. Ci racconti la scarpetta, siccome il Galateo dice che insomma non si può fare scarpetta. Te racconto io la scarpetta. Sempre prendi il pane, inzuppi. Però qual è la tua ricetta tra questi pomodori e poi naturalmente magari l'impasto? Dai, guarda, allora, veramente vado a diversificare molto, ma in realtà voi chef ci avete dato tanto a noi pizzaioli, per soprattutto per dare le giuste nozioni per come trasformare la materia prima, perché il pizzaiolo oggi ha avuto un supporto dall'alta cucina in modo incredibile. L'evoluzione della pizza negli anni 90, negli ultimi anni 90 e poi andare avanti è stato veramente è stato di grande aiuto un po' tutti i consigli che ci avete dato voi, un po' le faccio entrare nelle vostre cucine, ci avete fatto capire quanto è importante la trasformazione della materia prima. Io l'ho fatto pure col pomodoro, perché in modo che il pomodoro deve arrivare in modo giusto nel piatto, la trasformazione di una materia prima non è tanto comprare la materia prima buona, ma trasformarla in modo giusto. Bravo, la scarpetta, bravo. Sì, perché oggi si parla di pizza, prima la pizza negli anni 70-80 era buona o non buona, adesso noi stiamo lavorando per il sano, però per dire sano ci vogliono le figure professionali che ti affiancano, ma ci vuole una grande competenza e una trasformazione della vita. Se un pomodoro è ricco di polifenoli e non riesce a portare in modo giusto sulla pizza, vedi la margherita sbagliata mia. La margherita sbagliata, che è la pizza che un po' mi rappresenta, che nella sua semplicità. Ecco, ricordiamo come si fa una margherita sbagliata, quei pochi che non lo sapessero. È semplicissima. Allora, la classica margherita, pomodoro, olio e mozzarella vanno nel forno, si fondono a 400 gradi e quindi abbiamo il sapore unico della margherita. Mentre la margherita sbagliata è nata per esaltare il pomodoro riccio del territorio. E quindi io metto in forno solo la mozzarella e olio, quando esce dal forno una riduzione di una passata a freddo di questo pomodoro delle colline dell'Alto Casertano, il pomodoro riccio, e poi un pezzo di basilico e olio. In questo modo tu il palato ti va a leggere bene i tre ingredienti importanti della margherita. Mentre, quindi Franco, scusami, c'è anche l'attenzione, sì, al benessere alla fine, perché la pizza deve essere naturalmente buona, certo, ma in questo momento così particolare deve esserci anche la digeribilità, cosa che in molte situazioni qualche anno fa non era così facile. Attenzione, ma infatti Davide, tu lo sai che io 2 anni fa ho presentato con la collaborazione, oggi nel mio team c'è una biologa nutrizionista, ho presentato il menù funzionale, quando mi hanno fatto ambasciatore della dieta mediterranea di Appioppi, dove andrò sabato a fare un convegno, sabato prossimo, l'altro sabato tra 15 giorni, e io che cosa faccio? Vado a equilibrare bene, produrre carboidrati e lipidi, la condizione delle fibre con l'extrapiatto. Vado a equilibrare bene questi ingredienti per dare un apporto sano alla pizza. E quindi per me è importantissimo l'attenzione. Oggi nella pizzeria non c'è il pizzaiolo, ma c'è il team che lavora e ci sono. Infatti, un gruppo, il cuoco, io lo chiamo no chef, assolutamente, sono lontano da questa, il cuoco da pizzeria. Ti devo dire una cosa però, sei anche tu uno chef, perché la traduzione dal francese di chef non è adattato solo alla cucina, perché chef vuol dire capo, per cui potrebbe essere lo chef pizzaiolo, non c'è neanche una traduzione di pizzaiolo però in francese. Per cui questo ci rende orgogliosi. Comunque, la pizza negli ultimi anni a livello proprio di reputazione. Ma perché c'è gente come Franco, come Simone, come insomma tutta questa. Anzi, io farei un appello proprio per far sì che tutte le pizzerie di livello come la tua, come quella di Simone, come tante altre che ci sono in Italia, possano essere inserite nei tragitti enogastronomici, perché per essere premiate, per essere valutate tali e quali come sono i ristoranti, perché se parliamo di pizza con una base di pane neutra e sopra ci mettiamo tutta la cucina italiana, che possono essere i gamberi di Mazara o il tartufo bianco, voglio dire, capisci che per me dovrebbe essere assolutamente giudicata una pizzeria tale quale come quando giudichi un fine dining restaurant. Si sta andando sicuramente in questa direzione. Franco, qual è il segreto, se faccio la domanda più stupida del mondo, qual è il segreto della pizza? Tu sei il Messi, il Cristiano Ronaldo delle pizze. È la verità. Però voglio dire, in generale, qual è la cosa che dal punto di vista della fruizione, dal punto di vista dell'utente, si deve valutare per giudicare la qualità di una pizza in una qualsiasi pizzeria italiana? Cioè, allora, qual è l'elemento più importante? Ci vogliono le competenze per poter fare questo lavoro e saperle pure raccontare. Se oggi io, dopo il lockdown, ho riaperto il 2 giugno, nemmeno il 18 maggio, e solo il mese di giugno ho fatto accomodare dal 2 giugno, quando c'era questa paura di stare a 1 metro di distanza, fino al 30 giugno, 12.000 persone in pizzeria, significa che la mia comunicazione, il mio saper fare è stato accolto dal cliente e viene con grande continuità. Noi dal 2 giugno ad oggi abbiamo chiuso lunedì scorso per la prima volta e abbiamo accolto 400-450 persone al giorno nella pizzeria. Meraviglia. Dicendo a tanti di no. Ovviamente con le distanze, mi raccomando. Io che cosa ho fatto? Ho distribuito, ho tolto dei posti nelle sale, dei tavoli, però ho creato altre zone che ho dedicato all'accoglienza, e quindi come i tavoli del silenzio nel giardino, come la sala Gustave dove ci sono le opere d'arte, certo, in esclusiva per i tavoli social. Voglio dire, ho cercato certamente di dare sicurezza al cliente, il cliente lo ha capito e quindi ha ricevuto questo messaggio e viene da me perché sa che cosa trova nel piatto. Senti, ripartiamo da qui, fra un attimo. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, 349-238-6666 per i nostri e per i vostri SOS Oldani. Fra poco la prima ricetta dello chef Oldani, pomodoro San Marzano, mente e spaghetti. Io partirei da qui. Ci sono una quindicina di tipologie di pomodoro, chef, in Italia. Io sono pazzo del piennolo. Io sul piennolo, sapete che ho, insomma, proprio il piennolo con la pasta. Dipende dalle preparazioni che devi fare. Poi, soprattutto adesso, ci sono i pomodori pigmentati nuovi, che sono quelli che non ti aspetti di trovare, perché un pomodoro giallo, un pomodoro viola, o qualcuno lo chiama blu, oltre al pomodoro rosso, qualcuno mi diceva anche di un pomodoro bianco. Vuol dire, ci mettiamo un po' di fantasia anche nella produzione. Sicuramente alla base di tutto questo deve esserci il gusto e il profumo del pomodoro. L'altra parte importante è la parte rossa, perché noi adesso al ristorante facciamo un pesce, il morone, con un pomodoro giallo, c'è una salsa di pomodoro gialla. Io faccio ancora difficoltà nell'affrontarla, nel vedere il fatto che sia il pomodoro giallo. Certo. Però quando tu lo assaggi ti esplode in bocca il profumo. Adesso ricoinvolgiamo Franco. Mi dici un po' proprio a grandi linee le tipologie. Per esempio, il cuore di bue è perfetto per una caprese, o sbaglio? Ma dipende, il cuore di bue è perfetto per una preparazione, adesso sto pensando così al momento. Mi una ricordo preparazione... che l'hai associata all'anguria. Sì, sì, è possibile, a parte il colore, ma la freschezza che ha ci può stare. Però il cuore di bue lo utilizzerei per una preparazione che ha bisogno di consistenze nel piatto. Okay. Perché il cuore di bue lo tagli, è pieno all'interno. Magari un San Marzano o un ramato che ha i semini, ha le falde un po' più larghe, lo utilizzerei come nelle prossime preparazioni per altre cose. Per uno scarpariello, per una pasta che mi fa impazzire, che ci mettiamo? Ma sicuramente, San Marzano potrebbe andare bene per lo scarpariello. Franco, che dici? Allora, io il tipologia come il cuore di bue lo utilizzo su un impasto fritto. Sull'impasto fritto, quando esce dalla cottura, metto una polvere di aglio disidratato, poi il cuore di bue, accendo il cuore di bue, metto una piccola quantità di piccante e poi un'acciughetta con una gessa di arancio e prezzemolo, e si chiama sensazione di costiera. Cioè, da un impasto fritto, una pizza fresca, profumata. E arriva fin qui, guarda, tu hai detto queste cose, a me è arrivata proprio la sensazione. Io ho visto minori, maggiori, tramonti, ho visto... Bravo, e poi parlavi di pieno del Vesuvio. Pieno del Vesuvio è un pomodoro fantastico, cioè, un terreno vulcanico, una marcia in più fantastica. Io tra l'altro ho ricreato questa pizza, l'ho chiamato La Ritrovata, perché ho ritrovato il sapore di una pizza di mio padre, dove è l'evoluzione della marinara. Come io lavoro sulle ricette semplici, come lavorare sulla margherita sbagliata, la marinara, l'evoluzione della marinara è con una passata di San Marzano, ma poi appoggiato il piennolo, e c'è un po' di tecniche di cucina come la foglia di basilica fritta, il cappero di ciliegia, la ciliegia di Cesare. Franco, quindi una spiegazione, se puoi, sul fatto che si chiami, come si dice, pendolo. Il fatto che si chiami il pomodorino del pendolo, per quale motivo vogliamo dirlo ai nostri radioascoltatori? È perché, se tu vedi, questi vengono raccolti, poi vengono appesi, si mantengono, hanno questa forma dove c'è questa punta che poi li caratterizza rispetto agli altri pomodori. Grazie Franco, è stato meraviglioso, Franco. Ci hai dato il sapore di tutto, della penisola, della costiera, dei borghi, i borghi di cui parla Boeri, a proposito della città post pandemia. Anche lì c'è un bel dibattito, e mi fate sentire un attimo quel pezzettino del postino, che voglio andare a Procida, voglio andare tecnicamente parlando a Procida. Dica. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, la poesia. Strano come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti sentivi? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora. Esatto, come il mare. Infatti, ecco, questo è il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal di mare. 26 anni dopo il postino è nei nostri cuori, Massimo Troisi è nella nostra vita, nella nostra coscienza, nei nostri ricordi più dolci, e l'isola di Procida, con la quale ci colleghiamo, accoglie le peripezie del dottor Ciro Ferrara, e qualche volta anche le mie, e quelle di Zio Nick, che salutiamo subito, perché sennò è giusto? Ciao a tutti, Ciro, buongiorno, ciao. Ciao Davide, non so quale contributo io possa dare, perché tu sai benissimo, insomma. però sì, sono qui in terra procidana ancora per un po' di tempo, e poi e poi riprendiamo. Senti, la, Ciro, la prossima volta che Pier viene da te, vengo anch'io. Io vengo a cucinare due spaghetti, però mi vorrei aggregare alla combricola dell'estate. Molto, molto volentieri, ovviamente, Davide. Sarà un piacere e un onore averti a bordo. Perché c'è anche, insomma, poi un aspetto culinario delle nostre scorribande. E devo dire che il pomodoro, io quando ho pensato al pomodoro a questa puntata, ho pensato subito a te, cioè ti associo al pomodoro, perché, perché in realtà il pesce è buonissimo, perché c'è una grandissima varietà. Però, cioè, il pomodoro è un po' il centro di tutto. Assolutamente sì, e io a proposito del pomodoro ti voglio parlare di una ricetta che è lo scarpariello, Davide sicuramente lo conoscerà, perché tu basta che faccia friggere un pochettino di aglio nell'olio, qualche secondo, in modo che diventi biondo praticamente, e dopodiché ci aggiungi i pomodorini, pochino, attenzione, che devono essere già tagliati a metà, e li fai cuocere, nel frattempo cali la pasta, con l'acqua ovviamente già salata, e poi quando arriva il momento, voglio dire, di scolarla, l'aggiungi nel sugo e metti tanto pecorino romano e tanto parmigiano reggiano e ovviamente tantissimo basilico. È una ricetta da nord a sud, da pacchino a parmigiano reggiano, tutto il resto. Una ricetta incredibile. Lo scarpariello è la mia passione. Ma è una... ti dico che in certi momenti quest'estate la cacio e pepe ha vacillato in testa alla mia, perché lo scarpariello è una cosa proprio che sa di estate. Che scarpariello sciue sciue, si può dire in napoletano? Assolutamente sì, è un piatto veloce, sciue sciue, sta per veloce, rapido. Ma soprattutto buonissimo. Senti, vogliamo rispondere, modo... chef, alla ricetta straordinaria di Ciro Ferrara col pomodoro San Marzano mente spaghetti. Sei pronto? Ma sì, allora io direi stravolgiamo un po' questa ricetta, che poi, Pier, lo possiamo dire, la metteremo nel nostro prossimo libro. Certo, ok. Certo, che è in uscita. Allora, qui è molto semplice. Anzitutto ho utilizzato i pomodori San Marzano, possiamo dire del libro, bisogna parlarne del libro, il nostro Mangia come parli. Ma se io non faccio niente, scrivo due robe, è tutto il merito dello chef. Vorrei portare una ricetta anch'io, potrei fare pasta e patate, metti la pasta, metti le patate, fatta. Ecco, prego. Non è così, non ascoltatevi, non è così semplice la cucina, eh. Però allora, il tema in più di quest'anno è il prezzo, visto che siamo a Radio 24, 3 euro al chilo dei pomodori San Marzano che utilizziamo per questo piatto. Il segreto di questa ricetta, adesso la cambiamo leggermente, non è tanto il pomodoro che sbianchiamo, sbucciamo, recuperiamo l'interno, frulliamo, creiamo un'acqua di pomodoro, tagliamo le falde di San Marzano, le teniamo a parte, ma è il modo di cottura dello spaghetto. È un nuovo modo al quale ho approcciato qualche anno fa, e sono sempre più dell'idea che la pasta possa essere cotta in questa maniera, che ora vi spiego. Cioè una pentola a secco. Io ho disegnato anche una pentola che ha una dimensione più o meno di 30 centimetri, per cui dove lo spaghetto viene sdraiato, una volta che sdraiamo lo spaghetto nudo e crudo così com'è, alziamo il fuoco, lo facciamo appena appena dorare, vale a dire che prende una tostatura il grano dello spaghetto che mettiamo nella pentola. Quando sentiamo il profumo del grano intenso, quando vediamo che lo spaghetto colora leggermente, cominciamo a bagnare con poca acqua, ok? Per cui è una sorta a mo' di riso, ok? Per come faccio io il risotto alla milanese. Per cui una volta che abbiamo iniziato a bagnare, cuociamo per a seconda della tipologia e dello spessore dello spaghetto per 7, 8, 10 minuti. Io prediligo sempre la cottura a corda di violino, per cui una volta che abbiamo iniziato a bagnare, lo spaghetto assorbe acqua, si cuoce, non lo scoliamo alla fine e aggiungiamo questi nostri piccoli pezzi di pomodoro San Marzano, come dicevo, sbucciati, aggiungiamo un'acqua di basilico fatta con l'acqua di pomodoro che recuperiamo da San Marzano, messa in infusione con delle foglie di basilico, magari un basilico con foglioline o mentolato oppure solamente delle piccole foglioline di menta, e poi un velo di olio alla fine. Cucinando in questa maniera la pasta, naturalmente lo spaghetto è un po' difficile, un po' più difficile rispetto a una mezza manica, certo. Però hai una sensazione di profumo di grano molto più intensa, e poi soprattutto metti meno grasso nell'impasto, cioè nella preparazione, perché recuperi l'amido della cottura della pasta, non scolandolo, riducendolo, è già una pasta che è salsata, è già succulenta, aggiungi il tuo pomodoro e il piatto è finito. Che dici, Ciro, ce lo portiamo? Allora, due cose, intanto complimenti Davide, due cose, la prima quando vieni a bordo, La seconda, a me, dopo che Davide ci ha illustrato tutto ciò, mi viene un dubbio. È sicuro che è sciue sciue il sapace? è molto sciue sciue, sciue sciue, eh? Era sciue sciue quella di Ciro. No. Ripartiamola qui, fra un attimo, aspetta Boni, non ve la dare, stai là, vai. Mangia come parli, mangia come parli. Oh, siamo con Ciro Ferrara, siamo ovviamente con lo chef Oldani, con dei pomodori meravigliosi che sono i nostri primi compagni di viaggio in questa prima puntata del quarto anno. Ma sei sicuro che è il quarto anno? Stiamo invecchiando, già, è il quarto anno. Ti mangia come parli, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri SOS Oldani. Posso essere utile a bordo, sai, oltre che per cucinare, per andare a pesca. Io ho provato più di una volta, mi butto. L'ultima volta sono riuscito a beccarmi un bel polpo, quindi una volta anch'io a bordo, devo dire, diciamo, che la pesca è il mio sport pura. Preferito dopo il morto a galla. Il morto a galla è una cosa che proprio Ciro, proprio è, però sai che con i fondali che ci sono, un polpo in un'oretta lo riesci a prendere, sali, lo cucini alla giapponese / napoletana, ecco, meglio la seconda, ma è uguale vabbè. Perché poi la consistenza nel vedere il polpo con le ventose è la cosa, la libidina più bella in assoluto, e poi il gusto lo tagli fine e poi fai uno spaghetto sciue così. Mamma, non devi neanche scolare la pasta. Io voglio fare un'ultima domanda a Davide, però. Vai. Allora, perché ultimamente sto mangiando questo spaghettone XXL di una nota marca campana. Ok. E lo trovo non buono, di più, buonissimo. Sono innamorato dello spaghettone, dello spaghetto XXL. Ma anche perché, ecco, ragazzi, posso dire una cosa? Ciro. Ma possiamo dire basta allo spaghettino? No, possiamo dirlo. No, dai. Ce n'è uno per tutti i gusti. Per me, allora, per me è il numero 5. Per Pierre l'XXXXXL. Del resto, scusate, uno deve mangiare lo spaghettone della taglia delle sue camicie. Io ho XXXL. C'è una correlazione. Senti Ciro, ma nei tanti anni di calcio, come il rapporto col cibo, com'era? Per esempio, la nazionale si portava i prodotti, la pasta da casa, l'olio, il parmigiano, il grana. Insomma. Sicuramente da quando hanno incominciato poi le squadre a livello professionistico, la nazionale in modo particolare, a portarsi dietro i loro chef, il loro staff sostanzialmente, si portavano dietro anche tutte le provviste. L'alimentazione è ovviamente molto molto cambiata, se penso che quando giocavo ancora nel Napoli, prima di una partita ti mangiavi anche un filetto, è una roba che oggi sarebbe assurda, voglio dire. O la sera prima addirittura una bella pizza. Ma mentre la pizza la sera prima ci può stare, il filetto prima di una partita direi proprio follia. Ci vuole il carboidrato prima di una partita, no? 2-3 ore prima. Sì, e poi al Napoli c'era quel meraviglioso caffè del massaggiatore, dello storico massaggiatore del Napoli, o sbaglio? Cioè cos'è questo? Un caffè incredibile, lo so. Insomma, è un rito che vedo che tuttora continua con Tommaso, che allora Tommaso Starace, che è adesso il magazziniere del Napoli, prima era faceva il cameriere sostanzialmente lì nella mensa, e però il culto della macchinetta del caffè, quindi del caffè appena si arrivava al campo, era rimasto. Quindi io giocavo qui a Milano, avevo il tè, zuccherato, e lì c'era il caffè, perfetto. Potevi avere anche il caffè, ma il caffè a Napoli lo sai. Vedi, è cultura anche questa, è tradizione, ragazzi. Va bene, amico mio. Grazie, Ciro. Spero di vederti presto. Dai un bacio a Procida, Corricella, Chiaiolella. Ti aspettiamo, Ciro. Chiaiolella e anche a zio Nick, mi raccomando, che è una specie di sindaco in pettore della città. Insomma, il cugino di Ciro è veramente ci porta in giro in quest'isola fantastica. E poi Procida, sono meravigliose sia Capri che Ischia. Adesso non è che facciamo le gerarchie, però ci dà questa sua aria, questo suo essere rimasta veramente ancora di più ancorata nel tempo, no? E quindi con questo fascino veramente straordinario. Va bene, facciamo la seconda ricetta? Un pomodoro datterino in salsa cruda. Siamo partiti al contrario, va bene? È una cosa molto semplice. Pomodoro datterino è quello che utilizzo in questa preparazione, molto veloce. Il prezzo rispetto al San Marzano, rispetto al ramato, è molto alto per la qualità che ha, è 6 euro al chilo. per questa settimana, per cui è molto semplice: facciamo una salsa di pomodoro non cotta, puliamo 600 grammi di pomodori datterini, li tagliamo a pezzi, a piccoli pezzettini, li frulliamo, li passiamo la salsa a un colino molto fine, regoliamo con sale e, se necessita, un leggero tocco di zucchero per eliminare quella residua acidità che potrebbero avere. A parte, scaldiamo a 70 gradi centigradi 100 ml di olio extravergine di oliva. Io prediligo naturalmente il taggiasco, Pier lo sa, con 15 grammi di foglie di basilico mentolato, lo lasciamo in infusione per 30 minuti. Filtriamo questo olio e insaporiamo questa nostra salsa frullata a freddo e crudo per mantenere tutto l'aroma con questo olio aromatizzato al basilico mentolato. Allora, questa preparazione è molto importante per me perché mantiene le proprietà del pomodoro, perché non viene cotto. Volessimo addensarla leggermente o un po' di più, potremmo utilizzare una gelatina vegetale, quella dell'alga, che si trova oramai comunemente ovunque nella gidiola, si trova aggiungendo mezzo grammo di polvere di agar agar, quindi gelatina vegetale pura, agar naturale, agar. Sì, agar agar. Agar agar. Aggiungiamo, si addensa leggermente, possiamo usare questa salsa per condire o una pasta che scoliamo classica, oppure un pesce, oppure un pezzo di carne, oppure una mozzarella, voglio fantastico, dire. Fantastico, fantastico. Andiamo a vedere come sta andando per il settore vinicolo, questo drammatico per certi versi 2020, ovviamente non soltanto dal punto di vista sanitario, non soltanto dal punto di vista di tutto quello che sta succedendo nel mondo, ma anche dal punto di vista delle conseguenze economiche. Io do il benvenuto a Francesco Zonin, vicepresidente di Zonin 1821. Ciao Francesco, buongiorno. Come va? Francesco, come va? Ciao. Dacci una picture complessiva del mercato. Credo che ci sia una grande differenza per il vostro settore fra quello che è Horeca, quindi alberghi, ristoranti e catering, che si sono fermati almeno per quei 3 mesi di lockdown, ancora adesso. Dice il professor Rondani, eventi quasi zero, e invece il consumo domestico, che probabilmente non è diminuito. Francesco, allora, innanzitutto, quando si parla del vino, di solito anche in quest'anno di Covid tutti dicono l'apertura è beati voi, tanto il vino si beve comunque, il vino non ha problemi. In realtà, come dicevi tu, bisogna distinguere molto i canali, perché magari il vino non ha problemi, ma l'ambito, il settore in cui si muove il vino, in cui si consuma il vino, ha problemi e anche seri. Per cui tutto il rito dell'aperitivo, della condivisione, di scoprire nuovi vini, scoprire i nuovi territori italiani attraverso la tavola, attraverso i bicchieri di vino, soprattutto nel mondo della ristorazione, ha subito un contraccolpo molto forte. Molto forte, un po' in tutto il mondo. Poi tutto il mondo. Dall'altra parte. Fra l'altro, insomma, anche l'appuntamento, per esempio, col Vinitaly è saltato. Cioè, anche dal punto di vista proprio banale della promozione del prodotto, è stato un anno, ma non soltanto per il vino, ovviamente molto, molto complicato. Dicevi, Francesco? Sono saltate le fiere un po' dappertutto, non solo il Vinitaly, certo, ma anche in Germania, anche in Cina, negli Stati Uniti, tutti gli eventi, come diceva Davide, anche per la promozione stessa, perché poi il mondo del vino ingloba 450 denominazioni, quasi 1000 vitigni, per cui c'è un mondo del raccontare il vino, e qui Davide lo sa benissimo, perché sono i nostri ambasciatori in giro per il mondo, sono quelli che meglio di tutti raccontano la nostra storia di vite o di vita nel mondo, e quello è un problema oggi. Poi lo vediamo tutti in maniera positiva, perché credo che abbiamo tutti voglia di ritornare un po' a stare insieme. Il problema è la tempistica, e quindi, avendo anche il vino tempi molto lunghi, anche perché implica degli investimenti enormi, il fatto di non conoscere un orizzonte temporale crea qualche problema in più. Per il resto, ho una domanda, scusa. Vai Francesco, scusa. No, vai. Adesso la ripresa, insomma, adesso stiamo riprendendo tutti con l'apertura dei ristoranti, piano piano, io spero che questa cosa si risolverà anche con piccoli eventi, eccetera. Sul fattore prezzi del vino, come siamo messi? Da qui a Natale, mi viene da chiederti, ci saranno delle opportunità in più per poter assaggiare vini diversi? Ci saranno prezzi blindati? Ci saranno qualche proposta fatta dalle case vinicole per poter assorbire un po' quelle cantine che si sono fermate oramai da 4, 5, 6 mesi? Allora, in realtà i player nel vino sono tantissimi, per cui è un mercato poco coordinato, mettiamola così, dove le quote di mercato sono risibili, per cui c'è sempre stata l'opportunità nel mondo del vino di assaggiare grandi vini o novità a prezzi molto interessanti, soprattutto l'Italia. L'Italia, da questo punto di vista, ha un rapporto qualità-prezzo forse il migliore al mondo, e anche per rappresentatività. Un po' dipende dalla vendemmia, la mia risposta dipende dalle cantine. Ecco la vendemmia, volevo arrivare a quello. La vendemmia di quest'anno, di questi, insomma, in questi ultimi 20 giorni, come sta andando? Io sento un po', leggo, mi informo, la parte meteorologica non è andata così male, per cui si immagina che l'annata sia buona. A parte tutto il disastro del 2020, magari una cosa positiva, sì, tra virgolette. Poi il vino lo ricordiamo un investimento nel tempo, nel infatti, senso che quello che succede quest'anno dal punto di vista meteorologico e ovviamente della qualità delle uve, poi lo vediamo nelle bottiglie dei prossimi anni, quindi non è un investimento ovviamente immediato. Com'è quest'anno il meteo? Guarda, e la vendemmia? L'Italia è lunga e stretta, ti faccio due esempi. Noi abbiamo sono Veneto, abbiamo la cantina vicino alla Valpolicella, e lì avete forse letto tutti cosa è successo a Verona e nella zona della Valpolicella. Sì, sì. Ecco, abbiamo un'altra cantina che si chiama Principi di Butera in Sicilia, e lì non piove dal 4 di aprile. Certo. Per cui proprio è non piove fare neanche una valutazione mediamente unica. Mediamente non è una brutta vendemmia, anzi. Bene. È una buona vendemmia, c'è stato un buon clima, l'acqua è arrivata anche nei momenti giusti, nel modo giusto, salvo come solito alcune eccezioni, però diciamo che se guardiamo il 2020 non è neanche per quello. Senti, un tuo consiglio e poi ti lasciamo il tuo sabato mattina. Per ristoratori o appassionati di vino, è ancora il momento di comprare o provare a comprare ancora l'uva, cioè investire sull'uva, sulla pianta, e sperare che il clima vada come deve, oppure, vista la grande tecnologia che c'è, lo studio che c'è stato, i passi avanti che ci sono stati anche in Italia, è preferibile comprare poi la bottiglia fatta e finita? È un primeur, allora, dicono i francesi, o sbaglio? Allora, investire in vigna, poi insomma, se lo chiedi a me, io ho solo una risposta da darti, che ecco, sempre. Diciamo che l'investimento in vigna funziona e vale tantissimo se dietro c'è tanta passione. Se c'è tanta passione, è come un ristorante, Davide, se non hai passione credo sia più mal di testa che soddisfazione. Vero, vero. Però se la passione è il lavoro più bello del mondo, così è la vigna, perché siamo una fabbrica a cielo aperto e ha bisogno di tantissima cura, perché è il tipo di agricoltura, chiamiamola così, che è più labor intensive in assoluto. Dipende dal tempo, dipende da tantissimi fattori, per cui se hai passione, poi il vino, guarda, il vino viene dall'uva buona. Esatto. Tutto il resto che ci siamo inventati sì. È un po' come la tecnologia in cucina, no? Vero. Puoi migliorare certe ricette, ma se non hai l'ingrediente buono non va da nessuna parte. Assolutamente. Convintissimo. Grazie Francesco, bocca al lupo a te, alla grazie, vostra azienda, Francesco. a tutto il settore del vino italiano, perché insomma sono come d'accordo tutti, con lui. Io credo che anche in cucina più del 20% di tecnologia tu non puoi usare, hai un 80% che dipende solo dalla risorsa umana. Assolutamente. Fra poco torniamo, Spazio News, S. Soldani, un'altra ricetta, pomodori e non solo. Mangia come parli. Allora, tante cose quest'anno, tante novità, come avete sentito, ma anche tante certezze, tante rubriche classiche come lo Spazio News. Vai. Allora, il latte, ci sono tanti tipi, molto diversi, i consumatori, e questa è una tendenza che non riguarda solo il latte, chiedono sempre prodotti più digeribili ed healthy, cioè prodotti ovviamente dal punto di vista della salute insomma, più sicuri, più sani, esatto. E quindi anche da questo punto di vista, una volta dice mi dia il latte, oggi le tipologie sono sicuramente aumentate, ma anche le vendite nella grande distribuzione sono aumentate di 101 milioni di euro, il 22,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. E questo è un paradosso, se vogliamo. vogliamo, ma in realtà se ci pensiamo, con le famiglie chiuse in casa, il consumo del latte è uno di quei settori che sicuramente ha tratto giovamento, quindi ha avuto un andamento anticiclico. L'industria dei confetti invece è in crisi, la produzione è ferma, c'è un blocco dell'export, c'è il crollo del fatturato, meno 90%, e sappiamo che questo, insomma, su alcune zone del nostro paese, alcune zone meravigliose del nostro paese, incide. Sappiamo per esempio della grande tradizione di Sulmona, che risale addirittura al 1300, insomma, il fatturato a marzo e aprile è crollato del 90%, non è molto diverso da quello che è successo in altri settori dell'economia, ma insomma è poco consolatorio. Invece il boom dei prodotti iperproteici, per quanto riguarda sempre la grande distribuzione organizzata, almeno 215 le referenze che segnalano sulle confezioni di essere un'ottima fonte di proteine, perché insomma la proteina piace, Oldani, soprattutto dal punto di vista della digeribilità. Io sono sempre per il carboidrato, a prescindere. No, bene, infatti. Tu sei per proteina e carboidrato assieme. No, io sono per il carboidrato. Se devo scegliere una cosa, anche se le proteine sono importantissime, poi adesso insomma noi facciamo un programma. Il carbonara la mangi, no? Sì. Saldiamo le battute, ci sono aspetti nutrizionali fondamentali ed è giusto che ne parlino i medici e i nutrizionisti, però insomma, se devo dirti una cosa, ecco, ritorno allo scarpariello di qui sopra. La sfoglia più lunga del mondo, perché la cucina è anche creatività, il nuovo record a Forlimpopoli, dovevano battere un primato di 125 metri, è stato ampiamente superato con una super sfoglia di 177 metri e 72 centimetri. Diciamo sfoglia di pasta fresca, diciamolo, specifichiamo. Sfoglia di pasta fresca, siamo nella patria, una pasta perché, sfoglia. Esatto, siamo in Emilia Romagna, siamo in Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, la festa artusiana per celebrare i 200 anni del mitico Artusi, il record era quello di 125 metri, insomma. E invece sfogline e sfoglini hanno dato la loro disponibilità, c'è addirittura una signora di 96 anni che ha partecipato, a dimostrazione del fatto che la cucina è stare insieme e stare in con forma passione. Anche, e stare, ti tiene anche in forma la cucina, Pier. E poi io sto facendo la spola, sto facendo avanti e indietro con l'Anghirano in queste ore, perché ho il privilegio, l'onore di condurre quest'anno un appuntamento che ricorda un film di Bigas Luna, cioè Prosciutto Prosciutto, che però insomma era parlava di altre cose. Qui si parla invece del prosciutto, quello vero, quello di grande qualità, quello che in Italia sappiamo è una delle eccellenze più importanti, in Emilia Romagna in maniera particolare. Do il benvenuto ad Alessio Mammi, l'assessore all'agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca. Che cos'è Prosciutto Prosciutto? Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Assessore, che cos'è Prosciutto Prosciutto e soprattutto perché è così importante per la regione Emilia-Romagna, per tutto quel distretto meraviglioso di Parma? Il prosciutto di Parma è qualità assoluta, è un'esperienza inimitabile, è storia, tradizione secolare di intere generazioni che si tramandano le tecniche di produzione, e per noi è molto importante, perché noi siamo la regione che ha il più alto numero di prodotti DOP e IGP, sono 44, e questi prodotti, significa anche dal punto di vista economico, significano 3 miliardi e mezzo, quasi 4 miliardi di euro di esportazioni. E il prosciutto di Parma ne vale 1,7, quindi stiamo parlando di una delle DOP più importanti a livello nazionale, è la più importante insieme al parmigiano reggiano della nostra regione. E sono 140 prosciuttifici che operano da tanto tempo, da intere generazioni. Quindi per noi è un prodotto che rappresenta benissimo lo straordinario agroalimentare del nostro territorio, della nostra regione. E quest'anno, fra l'altro, la formula di questo prosciutto prosciutto è ovviamente digitale, con dei mini eventi ai quali ho l'onore e la fortuna di poter partecipare, ma essenzialmente l'idea è quella, in quest'epoca di smart working e di purtroppo di comunicazione a distanza, di riuscire a raggiungere il maggior numero di persone. L'export di prosciutti, fra le varie notizie, l'abbiamo letto, l'ASSICA, l'Associazione Industriale dei Salumi, parla di un 20% di calo da aprile, le esportazioni sono ovviamente un problema. Insomma, quanto pesa? Che cos'è? Posso chiederglielo anche da un punto di vista proprio sentimentale per un emiliano, il prosciutto di Parma? Sì, il prosciutto di Parma fa parte proprio della tradizione familiare di ciascuno di noi, proprio per il gusto particolare che ha. Naturalmente il Covid ha inciso fortemente rispetto alle esportazioni. Noi insieme al governo abbiamo messo in campo alcuni strumenti per sostenere la filiera, pensiamo appunto a 90 milioni di euro per il comparto zootecnico, di cui 30 destinati al prosciutto, e poi altri 13 milioni di euro per un bando indigenti che è uscito in primavera, e un altro dovrà uscire e in autunno, insomma, quindi un modo concreto per dare una mano a tutta la filiera. Scusa chef, io sto imparando delle cose in, questi, sì. in queste mie giornate di Spola con l'Anghirano, ma vorrei capire, in cucina il prosciutto cioè noi lo immaginiamo ovviamente come uno straordinario compagno di aperitivi da mangiare con la mozzarella, da mangiare con gli altri formaggi, ma il prosciutto in cucina può avere anche un ruolo, no? Assolutamente, il prosciutto ce l'ha un ruolo in cucina. Io sono dell'idea che un prosciutto, siccome è un prodotto finito in toto, è completo, quando l'assaggi buono è buono, non andrebbe mai toccato, per cui potrebbe essere in un ristorante di grande cucina o di fine dining, come viene chiamata adesso, un piatto di portata, cioè un piatto dove tu mangi solo, si può dire, 3, 4, 5 fette di prosciutto che siano l'eccellenza, cioè che siano molto sottili, che ci sia la parte di grasso corretta, che ci sia la sapidità e la dolcezza, perché il prosciutto di Parma è riconosciuto anche per la dolcezza che ha, per cui queste devono essere le caratteristiche. Poi lavorare un prodotto del genere, secondo me, a me fa molto fatica. Ah, certo. Per cui quando perché lo ti utilizzo, sembra di toccare una cosa quasi perfetta. Una cosa che ci sta, e oramai beh, è non quella. Male, non male, assessore, sentire uno chef come Oldani che di fronte al prosciutto ha quasi un timore reverenziale, no? Di non voler alterare il gusto di una cosa. Molto piacere. No, poi devo dire che il prosciutto piano piano ha preso piede nelle grandi cucine, dove naturalmente la fa la padrona, e poi lo puoi abbinare a un pane, a un grande pane, un pane a fermentazione naturale, che ti dà un gusto in più, che potrebbe essere quello della fermentazione, l'acidità, i forti profumi, per cui in questa maniera puoi completare e dare il valore aggiunto anche a un prodotto così importante. Grazie assessore, ci vediamo tra poco all'Anghirano, torniamo in pista per questo prosciutto fino a domani, ovviamente l'appuntamento sui social. 1,7 miliardi il giro d'affari complessivo, comprendendo tutta la filiera del prosciutto di Parma. Questo ci dà un'idea, Barisoni sarà orgoglioso di questo momento, insomma, perché vale per il prosciutto, vale per i formaggi, vale per la pasta, vale per tutte le eccellenze che abbiamo meravigliose nel nostro volevo paese. Volevo ricordare, abbiamo anche San Daniele in Italia, che sono due DOP molto importanti che rappresentano l'Italia in tutto il mondo. In tutto il mondo, così come rappresenta in tutto il mondo la pizza e il pomodoro, che è il nostro compagno di viaggio di oggi. Andiamo con gli S Soldani, poi abbiamo ancora una ricetta, fra poco. SOS Soldani, vai! SOS Soldani. Rossella da Napoli. Bravo, bravo, bravo. Salve chef, le piace il riso rosso? Lo usa nella sua cucina? Riso rosso mi piace, lo uso ogni tanto, facciamo delle cialde, delle sfoglie, per cui lo cuociamo, lo frulliamo, facciamo queste sfoglie molto sottili, poi le essicchiamo, per cui le diamo come una sorta di aperitivo. Chiara da Milano. Ciao Pier, ciao chef, che cosa avete mangiato di indimenticabile questa estate? Puoi dirlo tu Pier, visto che... Ma io ho fatto un'estate meravigliosa dal punto di vista personale, viaggiando per l'Italia ho visto fra l'altro che il Made in Italy è andato tantissimo, e questo mi fa piacere, perché insomma la gente ha capito che nei limiti del possibile questa terribile pandemia poteva essere un'occasione per stare un po' più vicini a casa e per scoprire le bellezze del nostro paese. Beh, adesso così, su due piedi viene in mente, visto che abbiamo parlato prima, proprio lo scarpariello. Cioè lo scarpariello è stato il mio piatto, proprio sono andato in fissa per tutta l'estate. Ho mangiato l'altro giorno una pasta con i finferli in Alto Adige, meravigliosa. Primizie assolute. Io direi che invece la ricetta che farò dopo, cioè pomodoro ramato candito, riguarderà quella cosa che io ho assaggiato quest'estate. La diciamo adesso o dopo? Che cosa hai mangiato quest'estate? Ma è un pomodoro candito molto semplice, fatto con un pomodoro ramato, tagliato in quattro, sbianchito, sbucciato, privato dei semi, posizionato su una placca da forno, e cotto in forno più o meno 40 minuti a 140 gradi, con un velo di olio di nocciola, che ha fatto la differenza, che tutti normalmente si aspettano basilico, un forte aroma di olio extravergine di oliva. Questo fatto con un leggero tocco di olio di nocciola mi ha colpito, e credo che lo rifarò. Aggiungo, il prezzo del pomodoro ramato è di 1,50 euro al chilo. 1,50 euro al chilo, va bene, noi monitoriamo i prezzi. Vi ricordo 349-238-6666, abbiamo anche Davide da Roma, sentiamolo. Buongiorno chef, c'è un ingrediente che ancora teme di usare nonostante la sua grande esperienza? O forse di osare? Beh, forse già il prosciutto di cui parlavo un istante fa, no? Esatto. Usata di rispetto del... Non lo so, teme, evidente anche ancora teme di usare. Ma c'è una cosa ostica, adesso voglio dire, tu sei, come diciamo prima, Franco, scegli tu se vuoi essere, non so, Van Basten, Ronaldo il fenomeno, Cristiano Ronaldo, Messi, chi te pare? Ronaldo, Pelé, Maradona, Ronaldo, cioè, scegli, Ronaldo. Scegli, ok, Ronaldo è un fenomeno, il cuore nell'azzurro non si tocca. C'è una cosa che ti riesce difficile, o comunque che per un pezzo della tua carriera è stato, cioè, un ingrediente, una cosa ostica, una cosa, sì, non facile. Ce l'ho, su questa tu sei d'accordo con me. Guardiamo al presente e all'immediato futuro, cioè... No, gli insetti no. Ecco, bravo. Vabbè, ma gli insetti, ho capito. Ma però vedi, sono d'accordo con te. Ma puoi campare 200 anni senza mangiare gli insetti. Ma ci sono le farine pronte da usare per la pasticceria, non in Italia, però se tu vai, credo in Svizzera, su quello io al momento ho un blocco. Cioè, non è che c'hai un blocco sul soffritto, c'è un problema con soffritto. No, il soffritto lo sai, oramai è abolito, cioè parte vecchio. Come abolito? Abolito? Ma hai sentito Ciro Ferrari? Totalmente abolito. Vabbè, bisogna riportare. Spaghetto sdraiato e non soffritto. Sdraiato. Ragazzi, quello che l'ho detto prima. Però XXXL, 4X. Per me Schini, per 4X. Me numero 5. Grazie, quarto anno, prima puntata, torniamo sabato prossimo, poi c'è l'appuntamento in replica, ovviamente, la domenica. Mangia come parli, Good Morning Italia, il nostro libro, diciamo, ragazzi. Diciamo, cioè, non corriamo il rischio che passi inosservato. In edicola, libreria, Amazon. Fascicoli, lo porta Audani a casa, ovunque. Basta, dai, ciao. Mangia come parli. Ciao.